Hadith numero 35 da Abu Huraira, che Allah sia compiaciuto di lui, disse l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la bingloria: non invidiatevi gli uni gli altri, non rincarate i prezzi, non odiatevi gli uni gli altri, non giratevi le spalle gli uni gli altri, non acquisti una parte di voi sull'acquisto di un'altra parte, siate o servi di Allah fratelli. Il musulmano è il fratello del musulmano, egli non commette ingiustizia nei suoi confronti, non lo abbandona, non lo inganna e non lo disprezza. Il timore di Allah si trova qui, e fa segno al suo petto tre volte. È un male per un uomo che egli disprezzi il suo fratello. Tutto ciò che appartiene al musulmano è inviolabile per il musulmano: il suo sangue, la sua proprietà, il suo onore. L'ha riferito l'Imam Muslim.